Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Anna Maria Cancellieri, romana, 70 anni, due figli, quattro nipoti, per molti è la nonna di ferro, in realtà il prototipo del vero servitore dello Stato. Perfetto candidato a tutto, dal condominio al Quirinale. Di lei stessa ha detto: sono un prefetto e nello Stato ci credo. Da ministro degli interni, dove è arrivata quasi per caso, ha sciolto 34 comuni per infiltrazioni mafiose. Da ministro della giustizia deve proporre la legge sull'amnistia e l'indulto, la legge più difficile e discussa. Allora, ministro, togliamoci subito il dente. Berlusconi rientrerà o no nella sua proposta di legge sull'amnistia e indulto? Io penso proprio di no. Quindi per lei Berlusconi è fuori? Sì, sì, sicuramente. Ecco, non ha avuto pressioni dal Quirinale in qualche direzione? No, assolutamente. E nessuna indicazione neanche? Neanche. Senta, ma lo sa che per molti sarà un provvedimento molto, molto impopolare? Beh, certo, lo so bene cosa significa, anche perché mi sono capitate anche nel mio passato queste cose. Ma quindi non ha paura dell'impopolarità? No, no. Credo, senta, che la gente capisca molto, molto più di quanto noi non pensiamo. Ecco, neanche il Papa però col suo discorso alla Camera aveva smosso i politici. Perché adesso che lei ha detto di no, ma insomma sembrava ci fosse Berlusconi in mezzo, come mai si è smossa adesso la situazione? Ma penso che sia proprio la necessità che abbiamo di far fronte all'emergenza carceri che ci spinge davanti a scelte... Un problema proprio, sì, definitivo. Sì. Ecco, Epifani, comunque, il segretario del PD, è stato categorico. Niente provvedimenti che sfiorano Berlusconi, rassicuriamo anche lui allora. Ma certo, certo. Nessun problema. Ecco, i 5 Stelle attaccano frontalmente Napolitano per il suo messaggio e per le reazioni che ha avuto verso di loro. Napolitano ha fatto bene o ha fatto male a reagire così? Ha fatto benissimo. Perché? Perché è stata una cosa squallida e assolutamente gratuita. Senta, ma Napolitano non ha troppo potere? Eh? No, no, no. No. Una volta lei era un ministro tecnico nel governo Monti. Adesso il governo è un governo politico, è diventata una politica? No, sono sempre un tecnico al servizio del mio paese. Ma ha capito bene lei che cosa sono le larghe intese? Perché non è chiaro a tutti. Sono il bisogno, la necessità di far fronte comune di fronte ai gravissimi problemi che abbiamo davanti. E si chiamano larghe intese, questa cosa? Possiamo chiamarle come vuole, quello che conta è la solidarietà e l'unione. Senta, ma lei si considera una progressista o una conservatrice? Sono sicuramente una progressista con radici molto salde, però. Cioè? Alcuni valori, secondo me, sono imprescindibili e in questi credo e crederò fino alla fine, però bisogna andare avanti. E quindi progressista in questo senso. Ecco, io ho visto la lista dei suoi incarichi al servizio dello Stato. È una lista lunghissima. Ecco, qual è stato l'episodio più duro che lei ricorda? La morte di Milena Bassi e quei funerali drammatici del papà che guardava quella bara, non lo dimenticherò mai. E l'episodio più bello invece? Beh, recentissimo momento di incontro con il Papa a Cagliari in cui mi incitava ad andare avanti nel mio lavoro per le carceri, è stato molto bello. Ah beh, quindi ha avuto un aiuto anche dal Papa. Senta, ma sciogliere 34 comuni, l'abbiamo detto nella presentazione, per infiltrazione mafiosa, è una semplice routine o qualcosa di più? No, no, non c'è nulla di semplice. Ci ho pensato molto, in alcuni casi è stato molto complesso, ma non si poteva non fare. Ed è stata una cosa pericolosa? No. No. Ma lei è stata minacciata? No. No, niente? No. Tutto tranquillo? Sì. Senta, ma dagli interni, che è il suo mondo sostanzialmente, alla giustizia è stato un salto molto difficile? Eh beh, insomma, abbastanza. Ah, sì, eh? Sì. Ma è la cosa più difficile, qual è stata? Beh, cominciare a comprendere qualcosa di questo mondo che mi era estraneo. Cioè, ha dovuto studiare molto, insomma. Direi di sì. Ma si lavora di più a quale dei due ministeri? Beh, la giustizia mi ha creato più complessità, quindi certo, forse proprio, di più. Perché proprio, ha dovuto studiare, esatto. Senta, ma ci ha lasciato il cuore agli interni oppure no? Beh, gli interni sono sempre la mia casa, ma sto molto bene anche alla giustizia. Senta, adesso comunque l'abbiamo detto, il cerino acceso in mano ce l'ha lei. Ha idee chiare sulle caratteristiche che deve avere la legge che lei proporrà? O sì, no? Sì, sì, molto chiaro. Le è chiare? Sì. Possiamo stare tranquilli? Cioè, per essere chiari, per avere un senso, così capiamo bene, questa legge quante persone dovrà coinvolgere, grosso modo, per avere senso e non essere da capo a 12 dopo un minuto? Le precedenti esperienze hanno portato ad una media circa di 20.000 persone, che per noi andrebbe molto bene. Poi c'è l'aspetto dei processi, che è altrettanto importante. Quindi, per noi. Cioè i processi da fare? Esatto. Esatto. L'amnistia incide anche sui processi da fare, quindi ci darebbe un grande respiro proprio per la nostra attività. Ecco, sì. Senta, quindi il numero, diciamo, 20.000 persone è il target. Sì. Grosso modo. Ecco, io le do un altro numero. L'ultima legge utile per questo scopo è stata la legge del 90. Erano 4 anni per l'amnistia, 4 anni per l'indulto. Ecco, sono i numeri sui quali si sta muovendo lei, più o meno? Potrebbero essere, ma comunque è il Parlamento sovrano che decide. Naturalmente. Però le sembra che potrebbe essere potrebbe una traccia. Essere, sì. Senta, Ministro, lei è seduta al Ministero sulla poltrona di Togliatti. 67 anni dopo, solo 2 anni dopo la fine della guerra, Togliatti, 67 anni fa dicevo, Togliatti ha fatto un'amnistia che è stata una pacificazione nazionale. Era difficilissimo, però l'ha fatto. Lei ha mai pensato di fare come lui? Il paese allora doveva ripartire e l'ha dovuto fare anche a prezzo di un'amnistia molto dolorosa. Questa è sicuramente molto meno dolorosa, ma se può servire a far ripartire il paese in unità di intenti, secondo me varrebbe la pena farlo. Ecco, Togliatti comunque, per restare a lui, amnistiò quasi ogni tipo di reati, assassini, stupratori, ladri. Ecco, servirebbe quel coraggio? No. No, assassini, stupratori, ladri, no, non usciranno mai. Però occorre il coraggio di ritrovare l'unità di intenti. Ma questa non è un po' la richiesta implicita che c'è nel messaggio di Napolitano? Sì, credo che il Presidente voglia proprio questo, che il Paese si ritrovi la forza di ragionare insieme, come accadde per il terrorismo. Soltanto quando si decise di mettere da parte ciò che divideva, si trovò la forza e si combatté e si vinse sul terrorismo. Altrettanto ancora adesso. Ecco, quindi si può dire che in fondo quello di Togliatti non sarà il modello da seguire, ma è un punto di riferimento. Esatto, è la linea. Non diciamo cancellieri come Togliatti, no. Ma insomma. Comunque ho la scrivania di Togliatti nel mio ufficio. Quindi, speriamo che porti già una bene. Buona, una buona suggestione. Senta, ma c'è una donna a cui lei si è ispirata nella sua azione durante la sua vita, comunque le è particolarmente piaciuta? Ispirazione no, mi piace molto la Jürsener, che dice lei? Margherita Jürsener, è molto, una donna affascinante. Memorie di Adriano, sono davvero un capolavoro. E un uomo? Einaudi è un bel modello. Perché? Beh, è un uomo assolutamente libero di testa e saldo nei principi, con un forte senso dello Stato. Senta, e lei non è mai stata femminista? No, femminista no. Perché? Io credo che occorra dare rispetto alle persone, indipendentemente dal genere. Cioè, quindi a prescindere dal uomini, sesso. Indipendentemente dal gay, sesso. Tutti. Tutti. No, ecco, quindi i è un problema di rispetto, persona. Diritti delle persone. Ecco. Ma sono più difficili da governare i prefetti o i magistrati? Beh, sicuramente i magistrati. Perché? Non sono gerarchizzati. Quindi sono un po' più autonomi. Ecco, ma la categoria più corporativa delle due qual è, secondo lei? Sicuramente i magistrati. Sì. E gli avvocati? Ha avuto un po' di problemi, loro, no? Anche loro non scherzano. Non scherzano. Senta, adesso comunque sulla riforma della giustizia, il Presidente Letta ha detto al Senato che sarà davvero un punto qualificante del governo. Ecco, quali sono le priorità immediate del governo in tema di riforma della giustizia? A parte le prigioni, processo civile e velocizzazione anche del processo penale. Prigioni, processo civile e velocizzazione del processo penale. Noi con l'Europa siamo sotto per la legge Pinto e per la sentenza Pinto e la sentenza Torreggiani, quindi carcere e lentezza del processo. Perfetto. I tempi di queste riforme? Io penso che su questi temi faremo molto presto, quello che sarà possibile presto fare. Presto cosa vuol dire secondo lei? Ma un mese, 2 mesi per alcuni provvedimenti o per delle leggi delega che ci consentono di operare in quei settori. Quindi immediato. Ecco, In questi anni c'è stato un problema di eccesso di giustizia spettacolo oppure no, secondo lei? Beh, certo, sicuramente ci sono stati dei momenti pesanti. Non dimentichiamo però tutto il resto che ha funzionato, non dimentichiamolo. Ma lei ha in mente dei casi precisi, di Guardi, eccessi, quello che ha fatto più male a tutti, che nessuno di noi dimentica, è Tortora, è stato il primo, il più eclatante, il più doloroso. Poi ce ne sono tanti altri. Tanti altri che, Sì, carità di patria, non fa lasciamo nomi, andare, lasciamo niente andare. nomi per carità di patria. Senta, ma la violazione del segreto istruttorio è un problema oppure no? Secondo me sì, Che c'è? c'è. Il cortocircuito tra informazione e giustizia, più o meno di questo stiamo parlando. Ecco, vorrei chiedere cosa ne pensa, ma prima vorrei che sentisse questo Montanelli dell'85, davvero fa impressione. Ecco, ma diciamo, questa giustizia spettacolo però è stata inventata dai giornalisti in qualche modo, oppure è una richiesta che viene I dai giudici? giornalisti hanno la loro parte di colpa, perché senza dubbio tramutano tutto in spettacolo, tramutiamo, perché anch'io appartengo alla categoria. Non credo di cadere in questo difetto, in questa colpa, però non mi dissocio dalla categoria. Noi facciamo sempre della dietrologia, noi facciamo sempre del sensazionalismo, noi abbiamo bisogno dello spettacolo, questi sono dei grossi vizi del giornalismo Ecco, ma italiano. ritornando alla giustizia, questo aver trasformato il giudice in una star è una richiesta della magistratura, dei giudici, oppure sono stati i giornalisti, oppure è l'equivoco del segreto istruttorio? È un incontro fra due disfunzioni e fra due colpe, quelle dei giornalisti e quelle della magistratura. Ma le colpe dei giornalisti sono meno gravi di quelle della magistratura. Ah, che effetto le fa un Montanelli dell'85? Drammaticamente attuale. Più o meno siamo ancora lì. Sì, però mi piacerebbe anche pensare a tutto quello che va molto, perché ho conosciuto dei magistrati straordinari che fanno cose incredibili, che non escono fuori. Ecco, No, ma infatti pensiamo soltanto a tutti i magistrati che hanno dato la loro vita per sì. combattere il terrorismo, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, di una cosa che lega magistrati e giornalisti, cioè la Purtroppo responsabilità. è tutto vero con un giornalismo che peggiora con la rapidità dei mezzi di comunicazione, quindi ora con i blog, con tutti quei sistemi lì, è ancora Quindi peggio. sempre più informazioni, ma forse il problema del controllo delle fonti è un problema sempre più grande, anche questo. Esattamente, Questo è il problema di sì. fronte al quale ci troviamo nel mondo che è super comunicativo, ma non sempre super informativo. Esatto. Senta, in ogni caso, l'Europa adesso ci chiede in modo definitivo di uniformarci agli altri paesi europei sulla responsabilità civile dei giudici. Ecco, faremo in tempo a risolvere il problema prima di dover pagare la sanzione? Sicuramente faremo in tempo. Sicuramente faremo in Sicuramente tempo. faremo Ma in tempo. ammazza, molto decisa lei, eh? Sì, io sono convinta che si possa fare le cose molto bene con equilibrio, rispettando tutto, ma lo possiamo fare. Ecco, ma mi dica una cosa, se non ci riuscissimo, quanto ci costerebbe? Confesso che è un problema che non mi sono posto. Ah no, perché lei è convinta che lo risolviamo e quindi Sono un dice, ottimista a no, ottimista oltranza. d'oltranza, proprio sempre la bottiglia mezza piena, Sì, insomma. sì. Senta, ma se lei fosse ministro, non fosse ministro, diciamo, li firmerebbe il referendum di Pannella? Parto dal principio che i referendum vanno tutti firmati perché è sempre bello ascoltare il popolo. Poi nell'atto dell'urna qualcuno dire di sì e qualcuno dire di no. E quelli di Pannella, insomma, Alcune sta lì, cose ci sta sì. pensando. Senta, una domanda che la riguarda la sua famiglia. Lei ha vissuto a Tripoli, no? Sì. Ha vissuto a Tripoli. Ecco, ha visto cosa sta accadendo in Libia. Guarda, non Ecco. me ne Lei ci parli. torna in Libia già ancora ogni tanto, no? Vorrei ritornarci, spero che al più presto trovi quell'equilibrio, lo splendido paese, perché è un paese importante, è un paese Beh, per importante. noi è Per me è importantissimo. Ecco, ma lei importante. che esperienza aveva della Libia? Perché? Bellissima, bellissima. Una famiglia Una bella famiglia, felice. Ma che vivevate in Vivevamo in Libia? Libia. Sì, io andavo solo d'estate perché ho studiato a Roma, però per me Tripoli era il sole, il mare, una bella gioventù sportiva e poi la famiglia, poi posti la felicità, meravigliosi, la giovinezza, l'Eptis Magna, sì sì, le bellissime, posti stupendi, il deserto, una notte nel deserto è un'emozione che non puoi dimenticare. Ecco, ma lei pensa che questo tentativo di nelle primavere arabe in qualche modo di avvicinarsi alle democrazie sia un tentativo fallito? No, fallito no, certo è complesso, è molto molto complesso, però dobbiamo andare avanti su quella strada perché sono una parte importante del Mediterraneo che può fare molto. Ecco, le faccio un'ultimissima domanda, Ministro. Nel suo futuro lei vede una presidentessa o una nonna felice? Una nonna felice. Ah sì, di sicuro. Vabbè, sicuro, tanto non poteva dirmi il contrario. No, di sicuro. La ringrazio tantissimo. Ricordo che dopo la pubblicità il nostro numero di telefono è 800 24 00 24 per chi vuole telefonare. L'SMS 349 238 6666. Tra poco, dopo la pubblicità, lo ripeto, ci ritroveremo con Pietrangelo Buttafuoco e Mario Secchi, i miei compagni di viaggio, per sentire che cosa bolle in pentola. Mix 24. Sono qui a parlare per il diritto all'istruzione per tutti i bambini. Nel nord del Pakistan abbiamo capito l'importanza delle penne e dei libri quando abbiamo visto le armi. Il saggio proverbio «la penna è più potente della spada» dice la verità. Gli estremisti hanno paura dei libri e delle penne. Il potere dell'educazione li spaventa. Questo è il motivo per cui ogni giorno fanno saltare le scuole, perché hanno paura del cambiamento e dell'uguaglianza che porteremo nella nostra società. Era giovanissima Malala alle Nazioni Unite. Ieri lei ha vinto il premio Sakharov per i diritti umani. Questo è il nostro tributo. Il discorso era alle Nazioni Unite, naturalmente, il 12 luglio. Siamo qui a Mix 24. Lo ripeto, al mio fianco Pietrangelo Buttafuoco e Mario Secchi, che buongiorno. Saluto. Ricordo ancora il nostro numero è 800 24 00 24. Mandateci SMS al 349 238 6666. Adesso parliamo di che cosa bolle in pentola oggi in Italia e nel mondo, ma prima che titolo fareste per l'intervista alla cancelliere? Mario il generale Secchi. Cancellieri, fortissimo. Generale Cancellieri. E Pietrangelo? Come Togliatti, ma più severa. Niente ladri fuori dalle galere. Cosa bolle in pentola? Allora Mario, che cosa bolle in pentola? Ma ieri è andata in borsa la Royal Mail, cioè le poste di Sua Maestà, caro Giovanni, e stanno realizzando in questo momento, il titolo corre, il prezzo massimo per il collocamento. Le richieste erano superiori 20 volte rispetto all'offerta. È una storia esemplare, secondo me, da contrapporre a quello che invece sta accadendo in Italia, perché le poste staccano un assegno da 75 milioni di euro per entrare nel capitale di Alitalia. È una cosa che è molto difficile capire, il progetto industriale che può stare dietro a questa cosa, anche perché, scusa, le poste mi pare che abbiano già qualche aereo negli hangar che non riescono a vendere. Esatto, ma al di là di questo, cioè, secondo me è la fantasia dell'aggregazione industriale che colpisce. Ieri ho sentito molti professori di economia che lavorano ovviamente su ipotesi le più varie, sulle ex partecipazioni statali, piuttosto che le aziende che sono oggi privatizzate, e nessuno di loro aveva mai immaginato una cosa del genere. Io lo trovo francamente singolare, anche perché vorrei ricordare che Alitalia nei primi 6 mesi di quest'anno perdeva 1,6 milioni di euro al giorno. Quindi uno si accolla dei debiti veramente significativi. Ecco Mario, scusa, prima di andare avanti abbiamo sentito anche la ministra Cancellieri, il suo rapporto con la Libia. E in Libia ieri abbiamo aperto perché avevano rapito, chiedo scusa ma la voce non torna, e ieri avevano rapito il presidente della Libia. Poi è sembrato che questo rapimento fosse qualcosa di incerto. Noi abbiamo al telefono Mansour Tantush, che è il presidente dell'Unione Islamica e della consulta del Ministero degli Interni. C'è al telefono? Buongiorno. Ah, buongiorno. Ecco, ci può fare un quadro? È difficile capire quello che sta. Lei va continuamente tra Roma e Tripoli. È difficile capire che cosa sta capitando in Libia. Ci può aiutare? Ci provo almeno. in Libia siamo arrivati alla resa dei conti, diciamo, perché in Libia si è instaurato un governo formato da diverse fazioni della realtà del paese, e chiaramente è un governo molto debole che non riesce a garantire niente, diciamo, specialmente la sicurezza nel paese. E quindi? Ma chi si combatte? Chi è che ha rapito? Poi alla fine si è capito com'è andata questa storia di un vero finto rapimento? Non è chiaro a noi almeno. Da quello che si sa, è stato rapito dalle stesse guardie, diciamo, che lo dovevano proteggere, ecco. Tant'è vero, cioè un push interno al potere? Push interno, anche se un push su uno Stato che non esiste, diciamo, ecco. Quindi un piccolo push inutile. Inutile, insomma. Questi sono segnali, chiaramente, che chi vuole capire capisca. Ma noi che vorremmo capire, cosa dobbiamo capire? L'Occidente dovrebbe capire i suoi errori che ha fatto, insomma, ecco, verso quel paese. Prima di tutto, chiaramente il paese... Cioè tra un po' si ritornerà in Nigeria Gheddafi, in Libia? Oddio, dopo uno spargimento di sangue così speriamo di no, ma comunque la speranza è quella di trovare un assestamento. Un assestamento con l'aiuto di tutte le forze, anche esterne, diciamo, non parlo militarmente, ma politicamente. Ecco, noi siamo molto interessati alla Libia perché ci forniscono il petrolio. In una battuta, dobbiamo avere paura? Direi, oddio, non mettiamo allarmismi, però con un particolare attenzione verso questo paese, perché è un paese che sta in mezzo al Mediterraneo, come lei sa, dove confluiscono diverse forze, specialmente dopo la caduta del regime, sconosciute, diciamo, fino ad allora. E questo chiaramente, specialmente l'Europa e l'Italia in prima battuta, deve guardarsi da questi avvenimenti. Va bene, grazie mille. Ecco, scusa Mario, puoi andare avanti con le tue bolle. Per la gioia di Pietrangelo Buttafuoco, citerò il compagno Stalin a proposito delle rivoluzioni, riprendendo un fantastico pezzo che ho letto oggi sul Financial Times. Tu lo sai che Indro Montanelli adorava a tal punto Stalin da avere un suo busto sulla scrivania? Lo so, l'ho anche visto. Sei anche gli estremi coincidono, dici? No, c'era una malizia. Lui diceva, perché questo busto di Stalin, direttore? Perché quanti ne ha eliminato lui di comunisti? Nessuno. Allora, cosa diceva il vecchio Stalin a proposito delle rivoluzioni? Diceva, non puoi fare una frittata senza rompere un paio d'uova. I danni ci sono. Bene, sapete quanto sono costate finora le rivoluzioni nei paesi coinvolti, del Nord Africa in particolare? 800 miliardi di dollari di mancata crescita. Si tratta di un calcolo fatto da una banca, è significativo, perché le rivoluzioni hanno un prezzo e non sempre, come abbiamo visto con la Libia, vanno abbiamo bene. Un SMS molto, molto divertente di un amico che ci scrive a proposito di quello che diceva Tantusce: incredibile, è come se Napolitano fosse stato rapito dai corazzieri. Credo che sia non male, ecco. E dipinge nella cosa surreale, dipinge lo stato ecco, della abbiamo Libia. Il telefono Rita da Roma, un secondo, che vuole entrare nella nostra discussione. Rita, pronto? Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Volevo porre una domanda al ministro Cancellieri. Non c'è più, però è andata via. Però dica lo stesso, comunque, vediamo se possiamo rispondere noi. Ecco, no, è che pur apprezzando la sua serietà, non rischiamo di dare un messaggio sbagliato del tipo veniamo in Italia, delinquiamo, tanto poi c'è l'indulto o l'amnistia e quindi poi siamo di nuovo fuori per delinquere di nuovo. Mi sembra Mario, ecco, ma rispondi, sai, tu, va? l'ultimo indulto non è che è servito a tanto. L'amnistia non la facciamo da decenni. Uno Stato forte deve avere la capacità di perdonare e di ripartire con nuove regole. Questo è l'intento che è scritto nel messaggio di Napolitano. Per cui il Parlamento, se fa un buon lavoro, fa una buona cosa anche per gli italiani. Sì. Grazie. Bene. Ecco, noi abbiamo ancora un SMS interessante che un po' si lega a quello che stiamo dicendo. Poste in Italia, uno schifo senza fine. Beh, insomma, certo è difficile da spiegare. Abbiamo Giovanni da Pordenone in linea. Giovanni. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Dica. Intanto bentornata alla radio che io ti ho sempre ascoltato. Grazie. Dica. Volevo fare una domanda e una considerazione. Io ho i miei pochi risparmi in posta. Sì. Sto valutando seriamente di ritirarli perché non intendo che questi soldi vengano utilizzati per salvare un'azienda decotta che ci è già costata 5 miliardi. E non solo. Il governo sta utilizzando, pare, la Cassa Depositi e Prestiti, che ha sempre con i fondi dei risparmiatori postali, per fare delle vendite di immobili non Io credo che effettivamente il problema che lei pone se lo pongono in tanti che hanno messo i loro soldi nel risparmio postale, e questo sarà un problema certamente a cui bisogna dare una risposta, perché la domanda è una domanda molto molto popolare. Grazie mille. Pietrangelo? Io questa storia me la sono immaginata fino in fondo come il secondo capitolo di un'operazione già fallita, che è stata quella di dare a tutti i costi una italianità all'Alitalia, un appello e un richiamo alla necessità di mantenerla come gioiello di famiglia, e che adesso probabilmente risulterà un fallimento, tant'è vero che questi ultimi giorni, questi ultimi momenti, diciamo, del governo rinnovato sembrano essere costruiti all'insegna della dismissione dei gioielli. Telecom, certo. Ora probabilmente anche Finmeccanica, e quindi Alitalia, e adesso le Poste. Che cosa succederà? Io mi auguro soltanto che non siano dilettantismi esibiti nello sbaraglio peggiore, Comunque ci proponiamo, è un impegno che prendiamo con i nostri ascoltatori, ci proponiamo assolutamente di avere qui il governo a rispondere a questi interrogativi, che sono interrogativi davvero diffusi. Beppe da Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Devo solo fare una domanda. L'Occidente, tanto intelligente, tanto progredito, ha esportato democrazia nei paesi arabi per importare clandestini. Ma è stato un bel business, cioè questa gente qua prima avranno avuto un dei regimi con di tutte le problematiche, però noi alla democrazia, all'Errol Royce, ci siamo arrivati in 2000 anni. Sì, però allora, io le voglio dire, scusi, andavano col cammello. Voglio dirle una cosa, però, per non essere demagogici e generici, sicuramente non è che quando Gheddafi governava la Libia non c'erano sbarchi, a frotte di clandestini che arrivavano dalla Libia. Credo che il problema è un problema veramente più complesso, che è quello di gestire i movimenti di popoli che da sempre, con momenti più forti e altri meno significativi, ruotano intorno e dentro la terra. Basta pensare all'impero romano, da allora in poi è sempre capitato. Comunque, grazie. Volevi dire una cosa, Mario? No, io voglio aggiornare i nostri ascoltatori sul fatto che Royal Mail in borsa a Londra in questo momento, a un giorno dalla quotazione, sta facendo più 36%. Cioè, quindi vuol dire che mentre chiudiamo l'Alitalia, no? Capita qualcosa di diverso nel mondo, ma soprattutto in Inghilterra, con la compagnia con le Poste statale. Di Sua Maestà, con le Poste di Sua Maestà che vengono privatizzate. Lo Stato ha collocato il 52%, doveva essere un esempio per tutti noi, non lo seguiamo. Io trovo surreale questo che sta accadendo, Giovanni. Pietrangelo, la tua bolla di oggi qual è? La mia bolla di oggi, più che una bolla, è un appello. Se poi magari facciamo partire una certa musica. Nel frattempo che sono chiuse ben tre librerie nel centro di Roma, io mi avventuro spesso nei vicoli vicino al Teatro Valle occupato per andare nelle mie librerie preferite, e allora lì mi è venuta un'idea, e questa musica aiuta a capire, è quella di fare un appello a Ninni Pingitore. Ed è che era un grande, che è stato il grande artefice, regista, quello che ha inventato assieme a Luciano Cirri il bagaglino. E poi ha fatto tanti spettacoli in televisione. Siccome c'è tutta una cultura musonita che si è impossessata del Teatro Valle, io dico: Ninni, prendiamo i nostri manipoli e le manipole e occupiamo il Salone Margherita. Ma questa potrebbe essere all'insegna del biberò. Una bella idea. Roberto da Treviso. Roberto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una considerazione riguardo all'affermazione che ha fatto il signor Secchi. Sì. Riguardo all'indulto, alla legge per l'indulto e l'amnistia, sì, no? Che il Parlamento, lo Stato sovrano deve sapere per la domanda? La domanda? No, è una considerazione. Fare. Una considerazione. Che sul fatto dell'Alitalia, purtroppo, si vede che si continua ad arrancare cercando di fare tutto per saldarla, quando purtroppo i fatti, e si fanno le cose solo con i fatti, portano a pensare in un modo diverso. E questo lo fa il Parlamento, no? Il Parlamento dovrebbe anche in questo modo però riuscire a fare una buona legge, dando l'amnistia e liberando i delinquenti che hanno commesso dei reati. Perché il presidente Napolitano ha ben affermato che è anche una questione di dignità e sovrappopolamento delle carceri. Siamo condannati dall'Europa per questo. Per l'amor di Dio, però liberare, non facciamo delle carceri nuove. Perché andare a liberare bisogna anche tener conto della dignità di chi ha subito il reato per colpa di delinquenti. Certo, e questo non l'ha mai detto nessuno. Va bene, grazie. Grazie, lei ha ragione, Giovanni, su questo spunto. Tre secondi, sì. Ha perfettamente ragione, certo. Lo Stato deve essere capace di applicare la legge, il problema è che noi non l'abbiamo applicata e siamo condannati, e condannati a provvedere subito entro il termine di un anno, a maggio, esatto, noi dobbiamo aver risolto. Perché i processi non si fanno, e questo poi è la loop che produce la super, il super numero nelle carceri. Ecco, mi fanno un segnale, io ancora sto imparando, dopo la viabilità, abbiamo la viabilità, dopo la viabilità naturalmente ci confronteremo col professor Simonelli, lo storico della televisione, che ci dirà dove era il canone, ma prima di chiudere un libro per il weekend, ce l'hai in testa in questo momento? Sì. Pierangelo, dillo. Come no, un bellissimo libro, un libro fondamentale, un libro che aiuterà ad aprire la mente. Vai, che stiamo nel frattempo, per chiudere. Sì, lo dico. Vabbè, io ne dico un altro, dai, vai. Tennis di John McPhee, l'ho detto io. Ma che? Va bene, dopo la viabilità, grazie. Mix 24. Siamo in diretta, sono le 9:47 minuti e 17 secondi. Al telefono abbiamo il professor Giorgio Simonelli, di storia della televisione, per parlare con lui di televisione. La domanda che voglio fare a voi, però, è questa: che cosa avete guardato in TV ieri sera? Intanto voglio sapere, dov'era il canone ieri sera, Mario, per te? Ma pare che su Rai 3 ci fosse un bellissimo speciale su Verdi. E per te, Pietrangelo, dov'era? Mi sono avventurato ad accendere la televisione, ho visto l'hai che fatto? C'era servizio pubblico di, come si chiama? Michele Santoro. Michele chi? Hanno inquadrato Rodotà, e ho subito cambiato canale perché cominciavano con gli indignati francesi. Ho detto: ma parlate di Marine Le Pen piuttosto. Che è prima nei sondaggi. E quindi ho cambiato. 24%. Ho cambiato. Allora, professor Simonelli, intanto ripeto ai nostri ascoltatori, il nostro numero è 800 24 00 24, gli sms 349 238 6666. Adesso parliamo di televisione. Professor Simonelli, buongiorno a tutti. Allora, dov'era il canone ieri sera? Era fuori dalla televisione, quella che si vede. Era in una decisione saggia che è stata presa da Mediaset di cancellare immediatamente Radio Belva dopo il fallimento del primo appuntamento. Beh, un po' di severità mi sembra, no? E guardi, perché vede, tutti si sono sono. È una televisione commerciale, è una televisione commerciale, può, non è pagata da canone quel programma. Però ecco, quando si parla così criticamente di questi programmi, si parla del turpiloquio, della volgarità, delle sovrapposizioni di voci, della cosiddetta cacciara, ma io credo che il vero male di questi programmi, che giustamente sono stati chiusi da una TV commerciale, sta in un altro fatto, nel fatto che non si capisce bene di che cosa si parla, cioè tutte queste cose, gli insulti, le volgarità, le aggressioni, avvengono sul nulla. Ma il passaggio dalla radio alla televisione non è semplice. Io credo che ci sia un problema anche diverso, professore, mi scusi, parlo un pochino da tecnico della televisione, se mi è consentito. Credo che ci sia un problema di sperimentazione. Oggi i programmi vengono pensati e mandati in onda senza quel lavoro di numeri zero, di verifica, di scrittura, che sono alla base poi del successo. E anche, forse bisogna cominciare dalle seconde serate e poi andare in prima serata, e soprattutto, soprattutto Rete 4, forse la rete ideale per quel programma, eventualmente Rai Italia 1. Sì, questo pare l'abbia detto anche Berlusconi. Però se l'ha detto, se ne intende di televisione. Nella TV è bravo. Voi ricordate da dove nasce questo modello, questo tipo, dove è stato sperimentato questo modello di discussione, diciamo, con un eufemismo? A bocca aperta da Funari. Sì, però il vero campo di azione fu il calcio. Sia certo. Il processo del lunedì di Biscardi. Sì, in alcune reti private. Ma io faccio questa osservazione. Nel calcio le discussioni, per quanto accese, per quanto a volte un po' volgari, un po' sopra le righe, riguardavano delle cose reali. Noi siamo tifosi, no? Quindi sappiamo che se si litiga e ci si insulta anche per un fuorigioco, per un rigore non dato, per una sostituzione sbagliata da un allenatore, si parla di cose vere, reali. Può darsi che il tono sia sbagliato, ma l'oggetto del contendere c'è. In questo programma non c'è l'oggetto del contendere. Allora, parliamo del... Ho capito, non le è piaciuto, è d'accordo con Crippa di Mediaset. E dov'era il canone, professore? La nostra domanda è: dov'era il canone ieri sera? Allora, il canone era, secondo me, su Classica, che ha fatto una serata Verdi, tra l'altro Classica è una TV a pagamento che ieri era free, e festeggiava insieme al bicentenario di Verdi anche il suo decimo compleanno, e ha costruito, e qui non sono d'accordo con Secchi che diceva che era su Rai 3, perché Rai 3 ha fatto un programma di storia, era un buon programma, storia, applicando però uno schema consueto, applicando a Verdi il suo schema, un divulgatore, una voce fuori campo, molte testimonianze. Quello che è mancato ieri sera, nella sera del bicentenario di Verdi, è stato l'evento. Una occasione del genere richiede un evento, e nessuna rete, a parte Classica che fa il suo mestiere, ha costruito l'evento. Posso dire, Giovanni, certo, secondo me l'evento non l'avrebbe dovuto costruire la televisione in sé, che pure ha fatto un buon lavoro, secondo me, su Rai 3, Vianello, secondo me ha fatto una buona scelta ieri, ma avrebbero dovuto costruirlo le istituzioni. Verdi, voglio dire, è Verdi, non ha bisogno di presentazioni, cioè l'evento doveva essere, diciamo, il vale i 150 anni dell'Unità d'Italia. Bravo, Giovanni, grosso modo. Insomma, stiamo parlando di un'icona. Quando Enzo Siciliano mandò la diretta dalla Scala, certo che ce lo ricordiamo, fece un primo tentativo che ha avuto poco seguito, ma io penso che la nostra discussione su dov'era il canone ieri sera porterà piano piano alla modificazione dei palinsesti, perché i palinsesti dovranno almeno per il 50% rispondere, soprattutto quelli della RAI dovranno rispondere alla domanda: dove sono i soldi del canone? Del canone. E questo è certo uno stimolo positivo per chi fa televisione pubblica. Professore? Sì, ma non vi sei, vi avevo perso. Stava cercando il canone. Sta cercando il canone, dice Mario. Le istituzioni, è vero, però dire, c'è un aspetto istituzionale della televisione. Insomma, abbiamo sempre detto, adesso non voglio essere polemico di ogni costo, però Rai 1 ha una dimensione istituzionale. Allora, è vero che sono le istituzioni che devono... Ha fatto una bellissima puntata porta a porta di Vespa su... Non era una giornata... Professore Vespa ha fatto una bellissima puntata di porta a porta con il maestro Muti. Maestro Muti, bellissima, è vero. Ripeto, che è il più grande interprete di Verdi. Era l'evento, cioè una giornata particolare, e ho rimpianto ancora una volta le serate di Beniamino Placido, ecco, che faceva serate divulgative che però diventavano proprio veri e propri eventi. E lei ce l'ha in mente un Beniamino Placido di oggi, professore? Concita De Gregorio. Male stamattina. Com'è? Non ho sentito la domanda. No, dicevo, lei, professore, ce l'ha in mente un Beniamino Placido di oggi? Forse no, forse è unico, però insomma, si può anche provare. Ecco, questo è il campo in cui sperimentare. Sperimentare un nuovo talk, un nuovo Radio Belvo, una nuova discussione, secondo me è tempo buttato via. Cercare qualche nuovo divulgatore, magari è lì in studio, qualcuno. Noi facciamo la radio. Ma poi noi non siamo intellettuali, appunto. Ci mancherebbe. Perché no? Mai dire mai. Grazie professore, ci risentiamo lunedì naturalmente, dopo il giornale radio continua Mix 24 con la storia curata come sempre da Marina Milone, raccontiamo la vita di Mia Martini, una voce sublime della musica italiana attraverso i ricordi degli amici Claudio Baglioni, Ornella Vanoni, Gino Paoli e poi l'intervista del critico musicale Mario Luzzatto Fegiz. Grazie ancora a Sara Tardelli che ha curato la parte giornalistica di questa puntata. Grazie.